La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 20 marzo 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E in questa trasmissione, in questa puntata di Caccia Fotone, proveremo a parlare di un articolo appena uscito su Science in cui si analizza la fuoriuscita di metano dalla piattaforma artica della Siberia orientale. Questo potrebbe essere un gran problema e quindi lo analizzeremo all'interno di questa trasmissione. Parleremo di questo argomento col professor Guido Barone, ex docente di chimica fisica ambientale presso la Federico II di Napoli e ricercatore a contratto sempre presso la Federico II di Napoli. Buongiorno professor Barone. Buongiorno. Professor Barone, all'inizio noi abbiamo 100 parole per iniziare, per cominciare, per dare il là a Caccia Fotone. In 100 parole cerchiamo di analizzare un aspetto solo. Perché il metano deve restare confinato all'interno del permafrost e quindi perché il metano è importante che stia lì e non vada in atmosfera? Dunque, è importante che possa rimanere confinato oppure che possa essere tratto con tecnologie appropriate, perché altrimenti la diffusione del metano nell'atmosfera comporta, diciamo, un forte incremento dell'effetto serra. Infatti il metano è 25 volte più efficiente dell'anidride carbonica dal punto di vista dell'effetto serra. Quindi se non viene intrappolato per tempo, oppure se fuoriesce, perché le tecnologie di estrazione del metano stesso da questi cristalli radi che si trovano sotto il permafrost o sotto la piattaforma continentale, se la tecnologia non è accurata si può portare a un riscaldamento molto, molto veloce, ancora più veloce dell'attuale. Professor Barone, con queste parole ci andiamo ad ascoltare un pochino di musica, poi torneremo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire perché il metano deve restare confinato all'interno del permafrost e soprattutto come si è formato, mentre nella seconda parte della trasmissione parleremo appunto di questa ricerca apparsa pochi giorni fa su Science. With no control, don't know what to do. Destroy anything, be satisfied. Free your pent up emotions, break everything you find. Everything is broken, broken fragments everywhere. Leave it out in continent. Break a table, hurt your hands. Throw a bottle on the wall. The wall. Use your mind and you're better off. Violent bentornati in studio, cari radioascoltatori, all'interno di Cacciafotone e su Radio Città Fujiko, per andare a analizzare insieme a noi una scoperta, una ricerca su, diciamo, le tematiche ambientali. Insomma, è stato scoperto che dalla piattaforma della Siberia orientale sembra si stia rompendo il permafrost e sembra che stia uscendo del metano. Per parlare di questa ricerca apparsa pochi giorni fa su Science abbiamo il professor Guido Barone, ex docente di chimica fisica ambientale presso la Federico II di Napoli e ricercatore a contratto sempre presso la Federico II di Napoli. Professor Barone, all'inizio abbiamo sentito un pochino il motivo per cui il metano deve rimanere confinato all'interno del permafrost, quindi sotto il permafrost. Cerchiamo di capire però quando si è formato questo metano e perché è tanto importante che sia lì. Dunque, l'origine del metano, diciamo, può sostanzialmente essere attribuito a processi biologici avvenuti, diciamo, anche in tempi molto lontani, processi avvenuti in condizioni anaerobiche che hanno portato alla formazione di metano gassoso. D'altra parte, lo stesso metano si ritrova in percentuali molto limitate disciolto nelle sacche petrolifere. In realtà, diciamo, il metano e qualche gas più leggero come lo stesso etano possono anche migrare dai giacimenti petroliferi che si trovano a varie profondità, possono migrare e formare delle sacche in zone lontane anche decine o centinaia di chilometri dal giacimento petrolifero originario. Questo è quello, diciamo, il metano di origine più antica, diciamo, in qualche modo. Altro metano più recente si è formato anche per decomposizione in condizioni anaerobiche di piante di vario genere, ma soprattutto sotto, diciamo, alle piattaforme continentali si è accumulato col passare delle centinaia di migliaia di anni o di milioni di anni, si sono accumulati tutti i detriti provenienti dalla morte, diciamo, del microrganismi acquatici, ma anche dai pollini, eccetera, ma che man mano sono gli microrganismi marini e i pollini, diciamo, si sono man mano accumulati sui fondali, ricoperti da strati di sabbia, man mano compattati, in cui il metano si trova disciolto, diciamo, presente nei pori di queste rocce. Va bene? E da qui può anche migrare, diciamo, in zone ancora più lontane. In realtà, diciamo, quando la temperatura del fondale o del terreno, diciamo, è abbastanza bassa, quindi nelle zone, soprattutto per quello che sappiamo, nelle zone circumartiche, quindi parliamo di Siberia, Nord Europa, Canada, Alaska, in queste zone la temperatura è molto bassa e la pressione, perché o sta sotto, diciamo, centinaia di metri d'acqua o addirittura sotto centinaia di metri di suolo gelato, porta alla formazione di qualche cosa di molto interessante, che sono i cosiddetti cristalli idrati di metano. Cioè, praticamente sono dei cristalli contenenti, diciamo, acqua soprattutto, sono cristalli molto belli quando si riesce a isolare, contenenti acqua e molecole di metano. In effetti la quantità in questi cristalli del metano è dell'ordine, diciamo, un metro cubo di questi idrati, di questi cristalli idrati, può liberare fino a 76 metri cubi di metano. Quindi come se il metano fosse stato solidificato addirittura, non liquefatto ma solidificato addirittura. Questi oggetti sono fragili dal punto di vista di temperatura e pressione e si possono decomporre facilmente per riscaldamento o per diminuzione di pressione, diciamo. Questa è l'origine e la situazione. Un calcolo fa ritenere che anche quelli che sono presenti addirittura sotto i fondali oceanici più profondi, oppure nei rift, nelle piegature, diciamo, lì siano quantità conservate di idrati addirittura più grandi delle quantità di gas metano che sono state finora scoperte. Senta, professor Barone, lei poc'anzi parlava appunto di quantità, ma se potessimo veramente quantificare, qual è la quantità di bolle di metano e qual è la quantità di cristalli di metano, facendo un po' un paragone fra i due? Ovviamente, diciamo, come dicevo, accennavo prima, la presenza del metano nei cristalli idrati è come se il metano fosse stato compresso a formare una specie di solido. Quindi le quantità sono, si assume che, almeno le ultime ricerche dell'ultimo paio d'anni, si assume che il metano contenuto in questi idrati rappresenti una cosa come due ordini di grandezza del metano libero come gas naturale. Senta professore, nella seconda parte della trasmissione, come già detto, analizzeremo questa ricerca apparsa su Science in cui si analizza il metano fuoriuscito o almeno in fuoriuscita dal permafrost, quindi dall'interno della Terra. Ma perché è tanto importante andare a analizzare se la fuoriuscita di metano ha una certa regolarità e se è schematizzabile attraverso alcuni modelli? In verità, diciamo, il metano sta crescendo nell'atmosfera a una velocità abbastanza notevole. Diciamo che dal 1900 ad oggi la concentrazione di metano ha triplicato nell'atmosfera, e questa è una quantità che non è stata mai raggiunta se si vanno a studiare i carotaggi antartici e groenlandesi, non è stata mai raggiunta negli ultimi 890.000 anni, circa 1 milione di anni. E questo, diciamo, preoccupa, perché la presenza del metano che fuoriesce da depositi naturali, sia sotto forma di gas originario oppure sotto forma di cristalli che si decompongono, può far incrementare l'effetto serra di quantità abbastanza forti. Già oggi, diciamo, il metano presente in atmosfera, visto che dà un contributo all'effetto serra 25 volte più efficace di quello dell'anidride carbonica, ha già raggiunto un quinto rispetto all'anidride carbonica come capacità forzante del riscaldamento globale. Quindi la pericolosità della fuoriuscita di metano dai fondali oceanici o dal permafrost canadese, siberiano o alaskano è piuttosto preoccupante. Su questa riflessione, professor Barone, andremo ad ascoltare un pochino di musica, poi ritorneremo in studio e poi finalmente parleremo di questa ricerca apparsa su Science, di cui abbiamo parlato, citato molto, ma ancora di cui non abbiamo analizzato nulla. Can I? Professor Barone, siamo ritornati in studio e quindi do di nuovo il benvenuto ai nostri radioascoltatori, gli ascoltatori che stanno ascoltando la trasmissione attraverso il sito di Cacciafotone, www.cacciafotone.it, e coloro che la stanno ascoltando da Radio Città Fujiko di Bologna. Professor Barone, a questo punto cerchiamo di analizzare davvero questa ricerca che è apparsa qualche giorno fa su Science, una ricerca peraltro condotta da alcuni ricercatori russi, che segnala, come dire, la fuoriuscita di metano dalla piattaforma polare della Siberia orientale. Ora, professore, io analizzando un po' questa ricerca o il paper sotto mano, non sono ancora riuscito a capire quanto metano, in che quantità, sta uscendo direttamente dalla Siberia orientale. Quindi è chiaro nel lavoro oppure no? Dunque, il lavoro, diciamo, ha gettato un certo allarme, perché erano stati misurati in passato diverse volte degli incrementi di flussi di metano da, diciamo, su varie zone, diciamo sia Nord Europa, sia Canada, sia anche Siberia. E già molti anni fa erano stati pubblicati dei lavori al riguardo, e questo era attribuito sostanzialmente al riscaldamento che faceva fondere e che fa fondere tuttora il terreno delle aree circumartiche. Questo permafrost ovviamente produce, ma questo è un discorso diverso dal discorso dalla ricerca fatta recentemente ai russi, il permafrost quando, diciamo, si scioglie, in effetti produce degli acquitrini, delle marcite, delle paludi, e lì le piantine che erano contenute sulla superficie oppure al di sotto dei primi strati di terreno gelato vanno a marcire, e quindi si ha un metabolismo anaerobico che produce metano anziché anidride carbonica. E questo è un primo, diciamo, una prima problema. Ora, dei russi invece ha indicato una questione ancora più rilevante, perché il flusso di metano è stato osservato come proveniente dal fondale delle piattaforme della Siberia orientale. Ora, il permafrost, cioè il terreno gelato, si prolunga anche sotto, diciamo, sotto il mare, sotto l'oceano, quindi, diciamo, potrebbe essere l'origine la stessa, diciamo, della decomposizione anaerobica di piantine o animali marini morti o cose del genere, quindi metabolismo metabolico. La cosa più pericolosa, sì, il riscaldamento globale, oltre a fondere parzialmente il permafrost, sta cominciando a intaccare gli strati sia della piattaforma continentale sia del permafrost terrestre, che sono più profondi e contengono questi idrati di metano. A questo punto, come dicevo prima, da un metro cubo di questi cristalli vengono fuori non un metro cubo di gas, ma ne vengono fuori 76. Potrebbe essere legato alla decomposizione di questi idrati che si trovano sotto il fondale oceanico, fondale costituito per la piattaforma continentale sempre da permafrost, tutto sommato, cioè terreno gelato. Quindi, professore, mi faccia capire, la temperatura della Terra si innalza, si rompe il permafrost, fuori esce il metano fa surriscaldare la temperatura del pianeta e questo processo continua all'infinito. Sì, è un processo che si autoesalta, solo che l'origine del metano può essere duplice, può essere decomposizione anaerobica di organismi, piante soprattutto, alghe, erbe, eccetera, oppure può essere la decomposizione di questi cristalli di idrati di metano. Ora, il lavoro non mi pare che chiarisca fino in fondo a quale origine loro attribuiscono, però ho avuto giusto il tempo di dargli un'occhiata. Mi sembra che loro non facciano una distinzione dell'origine del metano che hanno misurato. Senta, professore, io avrei alcune questioni da porle fra le tante, quindi comincio con la prima. Mi domandavo se si è capito l'incidenza del metano rispetto alla CO2, anche in riferimento ai report dell'IPCC che configurarono come antropogenica l'incremento della CO2 e quindi come responsabilità dell'uomo il riscaldamento globale. E poi, seconda cosa, se si è capito se l'incremento del metano è catalogabile attraverso una curva, attraverso un algoritmo, attraverso un qualche modello, oppure per adesso stiamo solamente calcolando, stiamo analizzando dati per poi cercare di fare un modello completo, quindi un modello studiabile attraverso dei supercalcolatori. Ma come al solito, diciamo, i dati sperimentali allo stato attuale indicano soprattutto una tendenza, un trend, ma parlare di modelli o di algoritmi può essere anche fuorviante, perché appunto, diciamo, sono sistemi complessi con molti feedback che si alimentano o si rallentano a vicenda, quindi se non si fa un modello complessivo la cosa può essere, può portare, diciamo, a grossi errori di valutazione. Quello che è certo, come accennavo prima, che la componente metano in questo momento ha raggiunto, diciamo, una forzante che è paragonabile a un quinto sull'effetto serra di quella dell'anidride carbonica alle concentrazioni attuali. Devo anche dire però che nel rapporto del 2007 dell'IPCC questo problema delle fuoriuscite di metano non erano state fortemente stressate, perché in qualche modo non c'erano sufficienti dati, anche se l'allarme cominciava a essere diffuso. Poi io stesso, diciamo, ho pubblicato al riguardo un lavoro nel novembre del 2009 su SCHEM, che è una rivista di chimica sostenibile, diciamo, europea. Però ci sono molti report e questo problema del pericolo connesso allo sfruttamento tecnologico del metano che viene da questi idrati. Quindi, professore, a questo punto abbiamo tre grosse fonti che generano il riscaldamento globale. La prima è la CO2, l'anidride carbonica, che ormai è diventata una specie di spauracchio e, come dire, è stato ormai dimostrato che l'incremento di CO2 è per mano dell'uomo. Poi abbiamo il metano che è molto incidente sul riscaldamento globale. Poi, questo è un argomento che citano molto spesso i negazionisti, abbiamo il flusso solare. Quale delle tre fonti è più incidente e quale delle tre fonti, come dire, dà un incremento sostanziale della temperatura del pianeta? Non è facile sfidare sul loro terreno chi si occupa di flussi solari, però la valutazione che oggi si fa è che, a prescindere, diciamo, da qualche sbavatura che c'è stata nell'ultimo report dell'IPCC, la questione è questa. I flussi solari si vedono molto bene che fanno oscillare la temperatura media globale con cicli grossolanamente di 11 anni, che sono i famosi cicli di Wolf, diciamo, delle macchie solari. Ora, diciamo, in questo momento il Sole sta subendo un periodo di relativa calma da 2 anni a questa parte, cioè si vedono meno macchie solari, ma questo è un indice indiretto che c'è meno turbolenza e quindi meno esplosioni e quindi meno vento solare e meno brillamenti, come si usa dire, quindi la turbolenza della superficie solare è un po' diminuita. Chi centra tutta l'attenzione sulla faccenda dei cicli solari sta dicendo, cioè, vabbè, è stato tutto sopravvalutato perché, diciamo, il riscaldamento globale diminuirà nei prossimi 10 anni. Sì, però, diciamo, facciamo i conti con l'anidride carbonica e col metano. L'anidride carbonica nell'ultimo 890.000 anni, come dicevamo, non ha mai raggiunto assolutamente i valori che ha raggiunto oggi. E sono paragonabili i picchi del periodo caldi, sono paragonabili a quelli del periodo preindustriale, alla fine del 1800. Mentre invece nell'ultimo secolo, 10 anni del 2000 e del 2000 sono importanti al riguardo, l'anidride carbonica è aumentata appunto del 35%, più di quanto sia aumentata nella storia conosciuta del clima terrestre, a giudicare dai carotaggi antartici. Quindi questo fatto, diciamo, è sicuramente pesante. Però a essere molto molto prudenti, diciamo che il contributo dei gas prodotti dall'uomo direttamente o indirettamente, come nel caso del metano e di altre cose, protossido d'azoto, i fluorocarburi, eccetera, eccetera, tutto questo dovrebbe portare una incidenza come forzanti radianti positive, tenendo conto anche dei contributi negativi dovuti all'azione dell'uomo, quindi polveri eccetera, dovrebbe portare a qualche cosa che va almeno 10 volte, non 1, 2 o 4, 10 volte quello che è il contributo dei cicli solari in questo momento quando sono più attivi. Senta, professore, prima di concludere Caccia Fotone le voglio chiedere l'ultima cosa, che poi è un argomento a cui abbiamo accennato nel corso di tutta la trasmissione. Questa non è la prima ricerca che analizza e rileva l'incremento di metano, quindi l'emissione di metano da parte della Terra. Lei peraltro se ne è occupato molto di questo argomento e molti sono i suoi lavori in giro che si possono leggere e che fanno vedere quanto il metano in realtà stia incidendo in qualche modo sul riscaldamento del pianeta. La mia domanda è questa: da quanto si sa che l'incremento della temperatura del pianeta sta facendo sciogliere il permafrost e la fuoriuscita di metano in qualche modo potrebbe far continuare all'infinito questo processo e quindi far aumentare ancora di più la temperatura del pianeta rispetto ai nostri modelli ormai schematizzati attraverso il report dell'IPCC? E che poi si tirano a vicenda, si autoesaltano a vicenda la CO2 e il metano. E in realtà, diciamo, i primi studi su questi idrati di metano risalgono addirittura all'inizio del 1800, ma in realtà nel 1930, in quegli anni lì, si sono capite due cose. Uno, che per esempio si formano questi idrati spontaneamente nei gas dotti, quelli che trasportano il gas, diciamo, nelle zone in Siberia, per esempio, no? Si formano queste incrostazioni che possono rallentare fortemente. Poi si è scoperto che sui fondali dei Caraibi o di altre zone dove ci sono delle fratture del fondale da cui provengono, diciamo, delle gocce, delle bolle di petrolio che fuoriescono, diciamo, dal di sotto del fondale, laddove sono presenti fratture. Per esempio nei Caraibi a 2-3 mila metri, quel poco di profondità, quel poco di metano che è sciolto nel petrolio, appena fuoriesce sotto la pressione e alla temperatura che, diciamo, è di qualche grado nel fondale caraibico, formano questi idrati di metano. Allora, diciamo, la preoccupazione è che man mano che si mette a punto l'esistenza di queste quantità sempre più grandi di questi idrati, addirittura maggiori di quelli che sono diciamo, i giacimenti di metano gassoso, sta cominciando a far preoccupare, perché insomma, diciamo che hanno 20 anni, almeno, diciamo, io la review che ho fatto ho trovato report, diciamo, allarmati già da 20 anni fa. Ma appunto, diciamo, in qualche modo non erano ancora chiari questo effetto dell'aggiunta del metano, quali ne fossero le origini e quali fossero, diciamo, le conseguenze per l'effetto serra. Ma già da 20 anni queste cose cominciavano a essere. Ripeto, diciamo, secondo me, nell'ultimo report del 2007 nell'IPCC questo problema delle fuoriuscite di metano non è stato sufficientemente ancora valutato, ma perché mancavano i dati, non si può inventare quello che ancora non è noto. Professore, con questo auspicio concludiamo Caccia Fotone. Speriamo che nel prossimo report l'IPCC sviluppi un modello che possa calcolare l'incidenza della CO2, l'incidenza del metano per quanto riguarda il riscaldamento globale, e questo succederà solamente se verranno fatti più lavori su questo argomento e quindi verranno dati più dati all'IPCC da poter analizzare e modellizzare. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Barone. Buon lavoro e buon ascolto.